Di Giovanni Minoli. Con il progetto Sesami, la scienza si mette concretamente al servizio della pace. Mettiamo insieme paesi che fra loro spesso neanche si parlano. Sesami, il cui cuore sarà un generatore di radiazione di sincrotrone, vedrà la luce in Giordania, in Medio Oriente. Una collaborazione internazionale che vede lavorare insieme autorità nazionale palestinese, Bahrain, Cipro, Egitto, Iran, Israele, Giordania, Pakistan e Turchia. Buongiorno, bentornati a Mix 24. Il 27 gennaio scorso si è tenuta a Bologna la prima delle quattro lezioni organizzate dalla Fondazione per la collaborazione tra i popoli sul ruolo della diplomazia della scienza. Ecco, buongiorno, ingegnere Alessandrovi, vicepresidente della Fondazione per la collaborazione tra i popoli e direttore della rivista dell'MIT in Italia. Che cosa si intende per diplomazia della scienza? Diplomazia della scienza si intende il fatto che oggi, e non solo oggi ma anche nel non lontano passato, la scienza è stata uno strumento indispensabile per chiudere qualunque rapporto internazionale sui temi che oggi ci riguardano. Faccia un esempio. Beh, oggi uno dei temi più importanti è quello del disarmo nucleare, dove tutto ruota attorno a quello che gli scienziati dicono ai politici. Il secondo tema è quello del cambiamento climatico. Ecco, ma nella storia c'è un esempio. Va indietro fino al canale di Suez, dove furono degli ingegneri italiani e francesi che convinsero il viceré dell'Egitto e le potenze coloniali, diciamo, che discutevano del riassetto dell'Europa dopo la guerra in Crimea, che il canale di Suez era una cosa che era utile a tutti e poteva essere fatta. Quindi Generovi è uno strumento, quello della scienza, capace di far collaborare i paesi. È capace di far collaborare i paesi e di offrire soluzioni che siano neutrali rispetto alle volontà politiche dei paesi. Mi fa un esempio di quali paesi stanno collaborando o lavoreranno insieme adesso? Beh, dunque, intanto alla base di tutto ci sta sempre l'Organizzazione delle Nazioni Unite quando si tratta di fare una cosa nuova. Per esempio, quello che abbiamo raccontato l'altro giorno, che si chiama Sesame, è una struttura costruita sullo specchio del CERN di Ginevra, per far collaborare un numero molto grande di paesi europei e americani ed altro alla realizzazione di una macchina per fare sperimentazione scientifica avanzata in Medio Oriente. Ma una macchina capace di fare cosa? Dunque, la macchina che crea dei raggi di luce, loro la chiamano, ma sono vari livelli di radiazione elettromagnetica, che possono essere indirizzati su superfici di materiali, possono essere indirizzate su delle strutture biologiche. E cosa fanno? Beh, semplicemente le mette in condizioni diverse rispetto al normale e permette un'analisi della loro realtà profonda. Ecco, ingegnerovi, come è stato finanziato? Dunque, è stato finanziato all'inizio con un seed money, cioè una risorsa di seme, diciamo, dall'UNESCO. Sì. Poi si sono aggiunti i finanziamenti delle varie parti interessate, a partire dai paesi del Medio Oriente che erano interessati a partecipare a questo lavoro, che aveva proprio come obiettivo quello di farli parlare assieme. Le cito alcuni paesi: Israele, l'autorità palestinese, l'Iran, l'Iraq, moltissimi. Si è unito attorno a una sperimentazione scientifica. Superando le divisioni politiche, quindi in questo senso. Ecco, ma i prossimi temi dei prossimi incontri di Sesame quali saranno? I prossimi temi saranno il primo, il cambiamento climatico, perché è stato un grande successo la conferenza di Parigi di un anno fa, dove finalmente si è raggiunto un accordo globale, poi approvato dagli Stati Uniti. Certo, da India, con Trump, Cile, con Trump forse le cose cambieranno. Ecco, le volevo appunto dire che la diplomazia della scienza ha funzionato perché non è intervenuta una non diplomazia di qualcuno che ha detto io non ci sto più. Trump non c'è stato sul tema del cambiamento climatico perché l'ha denunciato, non ci starà sul mantenimento dell'accordo sul nucleare con l'Iran. Senta, e questo crea dei problemi. Vedremo. Perché... che cosa si intende per grandi epidemie? Perché vi occupate anche di quello? Ci occupiamo di quello non perché non interessi l'epidemia, ma ci interessa il fatto che quando c'è una grande epidemia, gliene ricordo alcune, la SARS, si ricorda la febbre che veniva dall'Oriente, Ebola, Zika, quella della zanzara del Sud America, si crea una specie di conflitto tra gli stati, i media e la scienza, perché gli stati vogliono dire che in realtà non sta succedendo niente di grave, i media tendono a esaltare il fatto che invece ci sono delle migliaia di pazienti che muoiono e la scienza nel mezzo deve offrire delle soluzioni cercando di tenere una linea obiettiva e chiara. Ecco, ingegnere Ovi, un'ultima domanda. La diplomazia della scienza potrebbe essere usata anche per contrastare gli estremismi, addirittura il terrorismo? Assolutamente. Poco fa, 2-3 settimane fa, sono stato a Beirut a una conferenza dove i popoli della zona del Medio Oriente che si sono riuniti a Beirut a livello di universitari hanno fatto una serie di analisi del come la scienza può essere utilizzata per ridurre gli estremismi, proprio perché offre un linguaggio comune, offre la possibilità di discutere di argomenti senza litigare politicamente. Cioè capirsi scientificamente aiuta. Capirsi scientificamente aiuta moltissimo. Beh, dobbiamo affidarci alla scienza, alla diplomazia della scienza, Mario? Beh, la scienza è sempre stato un punto terminale di molte crisi. Siccome viviamo una crisi acuta della contemporaneità, è probabile che emerga alla fine anche la figura di uno scienziato. Durante la Seconda Guerra Mondiale emersero sì, chiaramente però, Einstein, Oppenheimer sì, e così però, via. Appunto, per la bomba atomica mi sembra che non è stato tanto una diplomazia della scienza. Ma... Beh, la lettera fu scritta da Einstein agli americani avvisandoli che i tedeschi avevano un programma nucleare. Da lì poi ci fu la velocizzazione della ricerca. Poi gli esiti li conosciamo, insomma. A volte la scienza è la prosecuzione della guerra con altri proiettili. Dovremmo ricordare, per esempio, in tempi recenti più di... sono esattamente 17 scienziati iraniani che sono stati uccisi dai servizi segreti stranieri. L'idea che la scienza diventi poi un veicolo non solo di aggressione ma anche di progresso è quello che terrorizza molto di più, perché la guerra appartiene ed entra dentro quello che dovrebbe essere un lavoro delle libere coscienze. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Che cosa ci fai sentire oggi, Pietrangelo? Arriva. Allora? C'era Filumena Marturano oggi, andava verso la stazione Termini e dietro di lei una masnada di bambini, di ragazzini, di giovanotti, dolcezze derivate tutte dal suo cuore grande quanto il cielo. Una donna può essere dura, ha detto lei che ha chiamato in centralino prima, ha voluto questo brano da dedicare a Domenico Soriano con un messaggio. Non solo Janis Joplin, anche io lo dico, i figli sono pezze gore. Però oggi è in versione family. Family. A famiglia, com'è che dici? A grande famiglia. E allora tu, Mario, invece la tua bolla? Francia. Non è proprio la mattina neanche questa, io oggi ho lasciato fare, vabbè. Mi sembra che ormai lasci fare sempre. No, questi in regia ci hanno preso gusto. Comunque, ci hanno preso gusto, vabbè. Mettiamola così. Purple. Va Vabbè, allora, Giovanni, la Francia è il centro di tutto, è vero, ci sono le elezioni in Olanda prima, comunque da tenere in considerazione, ma è la campagna elettorale francese che secondo me alla fine darà la misura di quello che ci attende poi in, certo, in Europa. Allora, Hamon ha battuto Valls, sarà lui il candidato del Partito Socialista. Fillon mi pare che abbia un po' di seri problemi con la storia dell'assunzione della moglie e la sua campagna elettorale, ma questa è un mio, così, una mia impressione, potrebbe essere benissimo che fallace, insomma, però la sua campagna presidenziale per ora mi pare non sia partita con il turbo. Il candidato che vola, visto ieri un sondaggio, sì, per quel che valgono i sondaggi naturalmente, è Marine Le Pen, che guida alla partita il 25%. Gli altri seguono con... Insomma, siamo al 23, mi sembra. Sì, 23, 22, 21, però insomma al di là dei numeri, delle forchette, diciamo che questo dovrebbe essere la tendenza. Mi piacerebbe sapere da voi cosa pensate delle elezioni francesi, che secondo me fino a questo momento non sono emerse chiaramente, diciamo, nel racconto né dei giornali, per quello che possono contare. Io penso che alla fine potrebbe vincere Fillon, perché con Marine Le Pen ci sono elettorati limitrofi che lui possono andare può, o di qua o di là, e lui ha la capacità di dipende da come, dipende se e come esce da questo primo inciampo che ha avuto nella campagna, sì, elettorale, sì, abbastanza fastidioso, sì, però dire, fastidioso, ma non mi sembra drammatico. Pietrangelo, si farà di tutto al punto anche di giocare sporco per non fare vincere Marine Le Pen. Non ha mai vinto, non vincerà mai, perché la Francia è quella cosa lì. Faccio la sintesi, mi pare nessuna possibilità per i socialisti, no, zero, non so se e in realtà il vero vincitore è Putin, che è amico di tutti e due. Entrambi i casi, certo. Che amico di tutti e due. Interessante. Beh, ma l'Europa putiniana avanza, mi sembra, a passi molto ampi. Finalmente, sì. Lindo Europa. Lindo Europa. Lindo, vai Europa. Con Salamino, Pietrangelo. Fare quello che si fa da sempre. Questo è Donald Trump. Il nuovo presidente degli Stati Uniti fa davanti a tutti, con schiamazzi e pubblicità, quello che gli altri hanno fatto da sempre, di nascosto e con discrezione. Lui è quello che da sempre sono state le amministrazioni americane, e così il suo bando ai musulmani è un'aggressiva campagna di delegittimazione politica e morale, e visto l'alzarsi dell'atrato razzista delle destre nel mondo, scontro realtà statuali non allineate. Alla faccia dei fatti alternativi! È una guerra geopolitica da sempre perseguita e oggi esasperata dalle anime belle quali l'Europa e l'Italia perfino. Perché la criminalizzazione c'è dalla caduta del muro di Berlino, da quando è venuto meno il nemico sovietico, e c'è anche in Italia. Più forte ancora è la campagna contro l'Iran. Quando Trump inserisce l'Iran tra le nazioni della lista nera, porta a compimento ciò che si persegue da più di 30 anni, con le sanzioni e la propaganda. Prima di Trump, nell'Italia liberale progressista, ogni aereo proveniente da Teheran era sottoposto, ancora oggi è così, a controlli antiterrorismo, in spregio alla realtà dei fatti. Se si pensa che l'unica realtà statuale, Mario, impegnata militarmente contro l'ISIS, è l'Iran al fianco della Russia, di Vladimir Putin, a sua volta soggetta, per volontà di Barack Obama, alle sanzioni. Ed è l'unica realtà statuale che porta le proprie unità combattenti, molte delle quali formate da soldati, sia cristiani, sia musulmani, sia laici. Mai un iraniano è stato coinvolto in fatti di terrorismo. Trump evidentemente non lo sa, non sa neppure che l'Iran non è nazione araba, anzi fa finta di non saperlo. Ma anche quelli prima di lui hanno fatto mostra di ignorare questo dettaglio, alleandosi piuttosto con l'Arabia Saudita, patria di Osama Bin Laden, finanziatrice delle frange fanatiche radicali dell'islamismo, e malgrado ciò, in virtù di patti osceni sottoscritti nei piani alti dei fondi sovrani, quelli finanziari, esclusa stranamente dall'elenco delle nazioni messe al bando. Nessuno pensi che l'innocenza USA sia morta con Donald Trump alla presidenza. Fa così Donald perché così fan tutti. Oh, questa volta sì. Niente file, proprio una tirata, no, una tirata fissa proprio. Vabbè. Un sermone proprio a questo punto, tutti in piedi. Rivendico la replica. Vai con la replica. Posso replicare? Puoi replicare. Musica. Allora, Pietrangelo, ascoltami bene, perché qua ci sono alcune cose condivisibili da me, naturalmente, quindi possono anche non valere niente, altre meno. Allora, quello che fa Trump non va bene oggi, ok. Quello che faceva Obama invece andava benissimo, e qui in effetti abbiamo, diciamo così, siamo quasi d'accordo. Un po' di fatti sparsi qua e là, Giovanni, soprattutto su questa cosa degli immigrati che... Dei sette paesi e così via. Allora, la lista dei sette paesi, per cui oggi si chiede a Trump come se fosse una caccia alle streghe, perché hai messo quei sette paesi e non hai messo gli altri? Perché l'hai fatto? Perché? Beh... Ha messo quei sette paesi perché sono una selezione fatta nel 2015-2016 dall'amministrazione Obama durante l'applicazione del nuovo Terrorist Travel Prevention Act. Chiaro, 2015-2016, in due atti. Obama ha fatto questa selezione. Quella cernita dei paesi è stata fatta dall'amministrazione Obama ed ereditata e ripresa dall'amministrazione Trump. E il bando? Il bando, si dice, come mai ha fatto il bando? Obama non lo fece mai, è errato. Il bando lo fece anche Obama per sei mesi nel 2011 nei confronti dell'Iraq, solo che allora non ci furono manifestazioni e non ci furono i cortei per gli iracheni, dimenticati. E all'accoglienza, i rifugiati siriani, i bombardamenti, bisogna assolutamente essere solidali. Benissimo, allora. Questo è il record di Obama sui rifugiati siriani. La guerra comincia nel 2011. Premio Nobel per la pace. Assolutamente, premio Nobel per la pace. Bene, nel 2011 Obama accoglie l'astronomica cifra di 29 rifugiati siriani. Nel 2012 si sforza un po' di più, ne accoglie 31. Nel 2013 fa un salto di qualità notevole, arriva a 36. Nel frattempo i morti sono già 200.000. Nel 2014 fa una cosa favolosa, ne accoglie 105. Nel 2015 sale all'astronomica cifra di 1.682. Allora, con, attenzione, 4 milioni di rifugiati, 400.000 morti, 5 anni di guerra. Obama dal 2011 al 2015 accoglie, l'amministrazione Obama, 1.833 profughi siriani, cioè la stellare media di 305 l'anno. Nell'ultimo anno della sua presidenza, guarda caso, improvvisamente, dopo aver fallito tutta la proxy war, che significa la guerra contro terzi in Siria, dopo aver provocato un disastro colossale con la sua strategia della red line che non va da nessuna parte, Obama fa salire il tetto per i rifugiati siriani a 13.000 unità. Preso dal senso di colpa, in sei anni di guerra, alla fine, ne ha fatti 15.000, che fa una media di circa 2.500 errotti l'anno. La Germania, da sola, la cattivissima Germania, ne ha presi 1.000.000. Allora, il premio Nobel per la pace, forse c'è da fare una riflessione su questi numeri. Ma se mi hai dato ragione, allora perché replica? Ma la replica perché vedi, per destare l'attenzione del pubblico, no? Scusa, perché no, è la mostrizzazione che non va bene. Va bene, basta. Canzoniere. Quando che nonna mia pigliò marito, non fece mica come tante e tante che dopo un po' se trovano l'amante. Lei in 50 anni non l'ha mai tradito. 800240024 per gli sms 349-238-6666. Vai ancora con una bolla, Mario? Allora, io vi dico ciò. Noi abbiamo oggi, che cosa? Un'altra cosa su Trump. C'è la rivolta della Silicon Valley. Sì. Questa è molto interessante. Beh, perché Zuckerberg oramai è l'antagonista. Ci sei arrivato. Mi hai anticipato. Sì, mi leggi nel pensiero quasi. No, ma questa lo penso pure anch'io, hai capito? Cioè, no, perché questa era fuori dal copione. No, ma penso anch'io, allora, Mario. C'è la rivolta. Mi capita. Che ti capiti sicuro, infatti anticipi. No, ma la cosa è surreale. Allora, noi abbiamo oggi la rivolta della Silicon Valley per i poveri siriani. Giustamente, sì, questa gente sta sotto le bombe, va soccorsa, eccetera. Ora, il problema è il seguente. Zuckerberg, quanti ne ha accolto nella sua villa stratosferica agli Hawaii? Chiediamoglielo. Faccia questo piccolo sforzo. Ci darà una risposta. Esatto. E intanto, adesso, col professor Roberto Bernabei, commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina. Le frontiere della ricerca. JAMA Internal Medicine, ottobre 2016. Effetti a breve termine della caffeina sulle aritmie in pazienti con scompenso. Si ritiene che la caffeina, il contenuto principale del nostro caffè quotidiano, aumenta il rischio di aritmie cardiache, soprattutto negli scompensati, cioè gente che ha un cuore che non funziona bene. I dati però sono modesti e non rigorosi, e è interessante andare a vedere se in una popolazione ad alto rischio, come può essere chi è che ha una malattia di cuore e quindi è scompensato, questa caffeina fa male o no. Allora è stata data, dopo 7 giorni di astinenza, è stato dato da bere a 51 adulti con malattia di cuore scompensati 100 mg di caffeina al dosaggio di una tazzina media ogni ora per 5 ore. Sono stati monitorati con elettrocardiogramma, Holter, e si è visto cosa succedeva rispetto a quelli che avevano la stessa bevanda ma decaffeinata. Nessuna differenza nelle aritmie tra i due gruppi, anche se erano sottoposti a esercizio fisico. Quindi, di fatto, questo ci in qualche modo rassicura su una scarso effetto aritmogeno della caffeina. L'unico caveat di questo studio è che è fatto da ricercatori brasiliani, niente contro i ricercatori brasiliani, ma sapete come il Brasile è territorio dove si produce il caffè, quindi magari un po' di sponsorizzazione del caffè c'è stata. E poi certamente il vero problema è che la casistica era fatta da soli 51 adulti e non è una casistica numerosa. Dopo la pubblicità, per la storia, un clamoroso caso di cronaca: il rapimento di Cesare Casella, uno dei più lunghi sequestri di persona mai avvenuti in Italia. Scomparso a Pavia nel gennaio dell'88 e liberato in Calabria nel gennaio del 90 dopo un sequestro durato quasi 2 anni. E adesso, per chiudere, Gloria Guerrera, cosa ha scelto per noi? Oggi una canzone per chi è vento, vento freddo che spazza via foglie secche e desideri. Nada, ma che freddo fa. L'inverno, il sole è stanco, a letto presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa. Che freddo fa, basterebbe una carezza per un cuore di ragazza, forse allora sì che t'amerei.